adesso non mi ricordo la classe, quelli di prima erano Isauro eccetera, erano tutti smessi, venduti, adesso sì, ma adesso c'hanno Isauro, i cosi, gli U-Bot 213 o 216, non ricordo, la sigla è quella, c'hanno dei motori particolari, queste macchine possono rimanere sul fondo, benché convenzionali, non so per quanti giorni, e quindi sono una minaccia reale. Poi sono silenziosissimi, hanno uno speciale tipo di motore che funziona anche sott'acqua, celle di idrogeno, una cosa del genere, insomma è tutto coperto da segreto, e sono unici nel suo genere, ovviamente sono molto segreti come prestazioni. Li avevamo fatti vedere anche Ulisse, uno di quelli, forse era la prima serie, adesso c'è già, stanno acquisendo la, cioè sia la terza serie, che sono ulteriormente migliorati. C'hanno un'elettronica dentro da paura, niente da inviare, anzi forse i russi la vorrebbero, e anche gli americani li invidiano. Sì, no, sicuramente a livello tecnologico non abbiamo, diciamo, difficoltà, però il problema è la propulsione, l'autonomia e la profondità. Vabbè, il Mediterraneo non è un mare grosso, profondità, però c'è, passa un sacco di roba nel Mediterraneo, per cui ci vuole anche l'autonomia, deve rimanere molto tempo in immersione. Quelli nucleari possono stare mesi sott'acqua volendo, anche di più di mesi, per cui il limite è quello lì di questi sottomarini. I mari nostri saranno veloci, ti spari e via e scappi, però quando c'è un sottomarino nucleare di quelle classi americane, come si chiamano, New Jersey, adesso mi ricordo la classe, quelli grossi, e dove che vuoi andare? No, non funziona esattamente così, vedi? Sono due cose totalmente diverse. Allora, quelli lì sono sommergibili strategici, non devono fare un benemeri tutto un po', sia quelli francesi, quelli inglesi, quelli americani, quelli russi, anche quelli cinesi. Quelli non devono fare niente, devono stare in acqua e non sanno neanche loro dove vanno. E quindi non fanno delle missioni che non sono missioni, devono tenere pronti a un ordine di lancio e boom, non possono né attaccare altri mezzi né fare tutte quelle cose lì, tant'è vero che la maggior parte sono sommergibili d'attacco tattico nucleare e sono una famiglia a sé stante. Altra cosa sono i sommergibili che vanno in missione, che portano gli incursori, che ne sono in Libia, eccetera, tipo vecchio, tipo seconda guerra mondiale, se ne intende. Quelle sono missioni in cui con il nucleare certo non si fa niente, capito? Quelli tattici, vabbè, gli altri sono strategici, c'hai ragione. Vai, Natalino. Ma che vuoi che ti dica? Questi sommergibili, pucci gatto, se tu ti dica che cosa muori come un topo. Ma nessuno di voi ci aveva dato un sottomarino, non parliamo solo sommergibile, sottomarino, quelli per vedere il fondo. Io in Corsica ci sono andato, sarà durata un'oretta e mezzo, l'ha attraversato, fa tutto il giro, tu vuoi vedere che carino, cacchio, però ti vengono i pensieri brutti. Tu di notte mi l'abbiamo fatto tutto illuminato il fondo, è partito da Ghiaccio, abbiamo fatto il giro, tutte le isole sanguinarie, non era alto il fondale, sarà stato massimo 40 metri, non lo so quanto scendeva, 30 metri, e vedi tutti i c'è tipo il film 20.000 leghe sotto il mare, una cosa del genere. Non so se ci siete mai andati voi. Io no. Sì, io ci sono andato, però non me lo ricordo se era, non era un sottomarino, era un affare che c'aveva il fondo trasparente, però adesso non è che me lo ricordo più, eravamo partiti da Alghero, figurati. No, mentre invece sommergibile sul serio ne ho visto un paio, uno l'ho anche toccato perché ero a Milano al museo della tecnica della scienza, ed era una cosa molto interessante, non mi ricordo il nome, ho bloccato tutte le vie di Milano per portarlo di lì, è abbastanza lungo, è molto lungo, c'è un'elica enorme, veramente gigantesca. E poi nel vostro piazzale c'erano parecchi aerei da caccia, se vi capita di andare a Milano, museo della scienza e della tecnica. Allora, tu quello di Alghero stai dicendo, quello è una barca che c'ha il doppio fondo, dai, che c'ha i vetri, quello giallo sta dicendo, quello mi pare ci sono pure sfasciati, l'ho visto da qualche parte in un cantiere in riparazione. Sì, quello di Milano ci vorrei andare a vedere, come vorrei vedere quello di Torino. Io ho visto quello di Coso, di Genova, il Museo del Mare, che c'è il sottomarino, per andare a visitarlo, nero, tutto verniciato di nero, proprio vecchio vecchio, non so se si chiama Eolo, un nome così, c'ha un nome di foto, breve, dai. No, è molto interessante. Molto interessante, poi ci sono tutti i modellini di Leonardo, c'è la microrobotica, c'hanno le telecamere dalla prima all'ultima, c'hanno quelle della Rai vecchie, quelle che ti ricordi grigie con scritto Rai TV, che erano, c'hanno tutti gli obiettivi che giravano, una cosa pazzesca. I cellulari, tutti i tipi di cellulari, dal primo all'ultimo. No, a me mi interessano molto questi musei, sono carini. Io ho visto quello piccolo a Genova, che non è neanche paragonabile a quello della Coso di Milano e tantomeno a quello di Torino. Quello di Torino è forse uno dei più belli, per non dire il più bello, che abbiamo in Italia. E quando ci avrò tempo, mi sono promesso di andarci, perché è una cosa bella. Quello di Genova, sulla Marina, probabilmente è il più bello che abbiamo, il Museo del Mare di Genova, e penso che ce ne siano ben pochi in Italia, sarà il numero uno, non so se ce ne siano altri, ma non credo che ce ne siano paragonabili a quello di Genova. Non lo so perché è molto grande, poi l'Italia con tutto il mare che c'ha voglia, è un museo già a cielo aperto. Vabbè, si è fatto tardi ragazzi, io devo andare, quindi per domani sveglia molto presto. Ci sentiamo, arrivederci, buonanotte, buona serata. E poi appena ti metto nel coso, appena riesci a mettere un'antenna, dobbiamo fare alcuni esperimenti, roba. Però decidetevi, perché credo che ci siano 3-4 giorni di tregua. Vabbè, però io settimana lavoro, se finisce, ci tiene sino a fine settimana, ma ho visto le previsioni, dura sino a mercoledì, poi di nuovo qualche schizzo di acqua. Bisogna sperare che ci sia una settimana, un fine settimana, un weekend buono, così è fattibile, se no è inutile salire e poi iniziare e non finire lavoro, voglio farlo con la sicurezza. Comunque già ci sentiamo prossimamente, magari domani se coincide. Buon tutto, buona cena, buona carica, tutto quello che devi fare, e buon lavoro per domani. Vai Natalia. Allora, vi saluto tutti e due, anch'io devo fare QRT, perché devo farmi l'insulina. Vabbè, dai, ci sentiamo alle prossime. Ciao a tutti e due, buonasera e buon proseguo. Sì, anche a te, Natalia, buon tutto. Io rimango ancora un po' in radio, poi stasera, se non mi addormento prima alle 23:33, c'è questo collegamento, dura 10 minuti, se riesco a farlo, se no pazienza. Ok, va bene. Saluti a tutti allora, 7:23 come dicono. Ciao. Cosa hai detto? Non ho capito. 73. No, ho salto settembrini, ho detto io sono di settembre, che c'entra. 73 in inglese. 7:23. Sì. Ciao, ciao, a domani. Sì, ciao, io rimango con Rex, faccio qualche chiamata qua, vediamo un po' se risponde qualcuno, se no, pazienza. Andando verso casa tua, eh? qualche po' c'è la Presanita, no? Quando vado a Presanita faccio da lì. Sì, tutto bene, ti invece fa cadere l'antenna in due in questi giorni, in due, proprio spaccata e a penzoloni. A me l'altra, quella da 510, quella che uso in recezione, quella è la tremata. Si è rotta? Sì, mi si è spaccata in due, vabbè, l'ho già sostituita, già tramite Walter l'abbiamo ordinata e insomma, l'abbiamo rimpiazzata. Sta pagata, dai. Vabbè, anch'io ho provveduto a fare tutto. Adesso spero di arrivare bene, tutto non lo so. Ho fatto tutto oggi. Va bene, va bene. Cara gara, andava bene. Mi sembra più chiaro, ti ho detto, le pizze mangiate, perché sono proprio della parte delle pizze. Ah, no, sinceramente non ho mangiato niente, non mi voleva mangiare, dai, ciao, mamma. Io la domenica a pranzo e massa. Sì, vabbè, io prima non ne mangio mai tutti i giorni, la domenica a volte non faccio, a volte no, però a pranzare, a cenare c'è. Io ho mangiato un po' di polpette e un'insalata, non è che abbia mangiato di San Fanto, io l'arancio. No, vabbè, anche perché oggi abbiamo fatto un po' di arrosto, quindi ci ho dato dentro a pranzo, abbiamo finito tardi, tra una cosa e l'altra, un bicchierino, qua e là, eravamo tutti a tavola sino forse alle 4 e mezza, alle 5, non so, quindi a mangiare adesso non ho niente, non ho neanche voglia di pensarlo, figurati. Vuol dire che ha fatto un pieno a pranzo. Sì, la domenica non mi concedo, cioè mi concedo questo sfizio che ho da piccolino, quindi. Sì, già fa bene, me l'ho visto che sento malanze. Allora, già va bene. Però non c'è, no, dai. Sì, a te. E il campo è bruciato, lo sta. Il campo è usato, lo stai. Ah sì, dopo, allora diciamo la verità, che stavamo organizzando per fare un'uscita ieri, però poi Gabriele, mio figlio, è voluto uscire, quindi non facevo a partire di notte, dai. Oggi era una bellissima giornata, infatti volevo passare la notte fuori, e niente, passare una giornata anche, invece no, è andata a riposo oggi. Lo sto utilizzando, ma non come immaginavo io, perché sinceramente c'è l'impegno del calcio la domenica, quindi secondo com'è devo accompagnare a lui, capito? Lo so, dove mi ripare, so. E vabbè, quando si può si fa, non è che sia una cosa grave, va. Quest'estate già ce n'è del tempo, l'estate già riposo, no? Ah, sì, ma infatti no, a me piace più, che ne so, andare, girare, magari fare anche dei chilometri, posso stare, che ne so, uno o due giorni e poi ripartire. Se andare la mattina per poi rientrare la sera, no, è una facchinata. Se passi la notte fuori, magari sì, vabbè, già capitato adesso. Forse mi devo informare, se vanno bene con le gomme che ho, forse domenica vado a Nuoro, perché la partita lì, quindi ne approfitto e niente, se giocano lì mi guardo la partita, poi pranzo in camper e poi con calma rientriamo, capito? A Cappella c'è l'obbligo delle ruote termiche o delle campere? Ma io dovrei avere le gomme 4 stagioni, quindi dovrebbero andare bene, non lo so, devo informarmi. No, non penso che le 4 stagioni vadano bene, sono generiche come le ruote, dai. Ci vorrebbero quelle specifiche, ci vogliono quelle termiche. No, non lo so, perché stavo parlando, ma ho detto no, tu hai 4 stagioni, va bene anche quelle, però per essere più sicuro vorrei prendermi le catene in maniera tale che se trovo neve non mi costa niente piazzarle, capito? Se no chiedi telefono alla stradale, mi chiedi, devo chiedere un'informazione, io lo faccio qualche volta, quando ero insicuro perché dovevo andare a prendere aereo a Sant'Eloro, c'è la zona rossa, e non è sicuro se poterlo fare, siccome lì se ne doveva andare dal lavoro, da lì, e dovevamo portare tutta la roba a casa, e non sapevo se potevo viaggiare. E ho chiamato la stradale mi ha detto se c'è una condizione del genere può farlo, ma esclusivamente solo in certe condizioni. Così, vabbè, io perlomeno ho chiesto a mio cognato che fa parte del centro operativo lo stesso. Ma c'è come quattro stagioni, non c'è bisogno di obbligo, è meglio per te nel caso che le gomme, sì, sono sempre gomme sul ghiaccio, sai come fa, se hai le catene è ancora meglio. Appunto, quelle termiche scaldano e non fanno venire sul ghiaccio, oppure le catene, che adesso fanno anche quelle, non come quelle di prima, tutte con la catena e cose, e fanno più in plastica, cose che sono più semplici da montare, sono elastiche. Sì. Le ho viste anche, sono tipo fascette, diciamo. Sì. Quelle lì sono, diciamo, più pratiche, praticamente. Vabbè, io volevo vedere se la rete andava bene, infatti ho fatto un po' di prove. Nei canali bassi, proprio zero di stazionarie, nei canali alti 1,3, oppure 2, 1,3, va più che bene, dai. Va bene. Vabbè, io adesso ti lascio che devo andare, mi preparo il letto e poi a mamma, che domani devo andare presto, ho troppe cose da fare, in questo periodo sto facendo visite a Mastro, Lastre, un casino, ho una spesa di visite da fare. Sì, anch'io tanto, mi tratteremo un attimino qua, avevo due cose, mi stavo guardando un film con mio figlio, e niente, anche io una mattina presto, 6:20, a terra, e quindi, e poi lavoro. Va bene, già, dai, tante cose belle, auguri, ci sentiamo, ciao, stai bene. Ciao Tino, tanto dai, a te famiglia, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao Tino, ciao Gianni. Ciao Frank, è finito di mangiare la pizza? Sì, siamo all'amaro. Ai ai ai, mica dopo devi turrarmi. Grazie a mia moglie, già la conosce la sala, ma non mai. Certo, vabbè, dai, è giusto la scelta. Ogni tanto ci vuole, dai, qualche riccone. Sì, già va bene, già va bene. C'è che sta in compagnia, fa tutto bene, dai. Dobbiamo organizzare un'altra di quelle cene famose. Aspetta che no, se coincide, se io sono libero, volentieri. Cena, pizzata, burro, non so. Tanto per stare in compagnia, dai. Io d'accordo. Ma posso salutarlo, ciao. Ciao Tino, un abbraccio anche a te. Stai chiedendo? Diciamo che stavo guardando due cosette qua al computer, in ascolto. Ho visto la portata di Gianni e insomma siamo entrati così a scambiarci due chiacchiere. Anche a me, vi ho sentito, anzi vi abbiamo sentito. Sono entrato per salutarvi ad entrambi. Andà Bex, va bene, buon divertimento, buon fine serata, buon tutto. Com'è la mia voce con un MC60? Che è bella, ma guarda che il tuo microfono, la tua voce te la fa lo stesso bella, con il microfono che c'è lo sciura è bellissimo. Vabbè, ciao Tino, anche a te, buona serata. E io, altrettanto, ciao ciao. Con chi sei? Con Claudio? Sì, sono con Claudio. Guarda, fatti due chiacchiere, saluta gli amici e via, dai. Ho capito, va bene, saluta la marmaglia, ciao ciao. Un abbraccio a tutti. Sì. Ciao Tino, ciao. Ciao Gianni. Ciao Gianni, un abbraccio a entrambi. Alle prossime. Ciao ciao, non ti ha cambiato, tutto accetto, ciao ciao.